abbiamo un super pastore, vero? Incredibile! Il nostro super pastor, per piacere, non lo chiamare Pinuccio, perché è il suo nome, è vero, ma noi lo vogliamo riconoscere come un'autorità su di noi, e quindi chiamalo super pastor, chiamalo pastore, chiamalo past, chiamalo papà, chiamalo padre, chiamalo nonno, ma non lo chiamare Pinuccio, ok? L'ho detto, dovevo dirlo da tanto tempo, perché è bello poter dire: Signore, grazie, perché lui è il pastore che tu hai dato la mia vita per guidarmi. Che bello! E chissà anche quello che il Signore quest'anno sta preparando per noi come Chiesa. Ti piace? Sei pronto a tutte le cose nuove che Dio ha da darci quest'anno? Prontissimi! Siamo svegli? Sì o no? Sì o no? Ti piace che sei qui a True Love o no? Vogliamo alzarci in piedi di nuovo? Sì, così ci svegliamo, dai, così, perché questo calore in fondo è meglio quando fa freddo nella chiesa, perché il freddo ci tiene svegli, invece il calore ti dà... Posso vedere le mani di chi è qui per una delle prime volte, per la prima volta o per una delle prime volte? Benvenuti, benvenuti, vogliamo ringraziarti di essere con noi, è bello, sei a casa tua e questo è il luogo che Dio ha deciso per te, per farti stare bene, per benedirti, è il nostro onore poterti avere qui. Vogliamo mettere un braccio sulla persona che abbiamo vicino? Se sei tra due, mettila tra due. E abbiamo visto una performance stupenda del vasaio ed è molto, molto bello che Dio è il nostro vasaio, che Lui ci forma. Però la cosa che è un po', non lo so, a volte ci fa sentire in tensione è che un vaso in realtà è plasmato nelle mani di qualcuno e noi siamo nelle mani di Dio. E forse quando sto dicendo questa frase per molti di noi non va bene, perché non ci sentiamo completamente a nostro agio che un'altra persona possa plasmare la nostra vita. Ma quello che devo dirti prima di tutto è che le mani più buone che tu potessi avere, le mani migliori che potessero formare la tua vita, quelle sono quelle del nostro Dio creatore, quelle che ti hanno formato, che ti hanno inventato, che ti hanno creato sin da quando sei nato, anzi prima che nascessi, le mani del tuo creatore, del mio creatore, ci hanno pensato per farci esattamente come siamo. Quindi quello che possiamo fare è solo fidarci, come ci stiamo fidando dell'ascella della persona che hai vicino, ok? Stai pregando che non sudi più di tanto, che abbia messo il deodorante, che il profumo sia buono e stai chiedendo: Sara, per piacere smetti il prima possibile perché non ha un buon odore. Ti stai fidando di questo abbraccio. Bene, questa è un po' la sensazione dell'essere abbracciati da Dio, giusto un po'. Però un vasaio ci forma, quindi per piacere stasera fidati di quello che Dio vuole fare nella tua vita. Fidati di come Lui vuole cambiarti, fidati di quello che Lui ti vuole dare, fidati di come ti vuole amare, amen? Vogliamo pregare per la persona che è vicino, che possa fidarsi di quello che Dio sta per dire, di quello che Dio sta per fare, amen? Grazie Padre. Gloria a te, Signore Gesù. Vogliamo ringraziarti perché le tue mani... sono le più dolci che potessero esistere nella nostra vita. Grazie perché le mani del tuo amore... Il tuo amore è quello che ha formato. Padre, Signore, noi vogliamo dirti che ci fidiamo stasera. Che ci fidiamo di come tu vuoi plasmarci, di come tu ci vuoi formare. Signore, non vogliamo fare dei vasi che si alzano in piedi e che si tolgono dal tornio, ma vogliamo essere dei vasi che restano e che si fanno formare dalle tue incredibili mani. Signore, noi ci fidiamo di te. Noi ci fidiamo di te, Signore Gesù, perché tu sei un Dio buono, perché tu hai il meglio per noi, perché tu sei il meglio per noi e quindi noi vogliamo dirti ad alta voce che ci fidiamo di te, che ci fidiamo del tuo abbraccio stasera, che ci fidiamo della tua parola, del tuo nome Gesù. Amen. Amen. Mentre ti siedi, di alla persona vicino, ehi, fidati, fidati, ok? Fidati che ti fa bene, fidati. Abbiamo appena, stiamo concludendo True Love, la conferenza che abbiamo da 7 anni in realtà, sul tema delle relazioni, della sessualità, dell'amore. Stamattina, quanti c'erano stamattina? Posso vedere la mano alzata? Stamattina il pastore Punto della Chiesa Sabato ha predicato un messaggione, vero? Fantastico, il Signore ci ha fortemente benedetti, ci ha guidato in decisioni bellissime. Io mi sono risposata con mio marito. Per quanti c'erano possono capirlo, ci siamo risposati come coppie in un matrimonio nuovo, sempre con la stessa persona, non un'altra, ok? Sempre con la stessa, e quindi ho avuto l'occasione oggi di ricattare mio marito e dire ora possiamo fare una seconda luna di miele, perché in realtà voglio andare in vacanza, e quindi stiamo valutando dove andare in vacanza, tra Bitetto, Binetto, Grumo, ma ora sceglieremo il posto giusto, se rimarrà Mola e stop. Che bello. Il vero amore ama per primo. Ti piace? Il vero amore ama per primo. Il vero amore è il primo, sempre. Non sto dicendo che la prima persona di cui ti sei innamorata rimane, no, perché pensiamo, no, ci si innamora solo una volta. Quanti si sono sposati con il primo amore della propria vita? Posso vedere le mani? C'è qualcuno? Papà, alza la mano. Perché stavo aspettando. Vedi, mamma l'ha alzata, papà. Vediamo, vediamo, vediamo. Pastore, ma come facevi a non innamorarti di questa bionda che Dio ti ha dato? Cioè, vediamo chi ha Nino. Angela, è il tuo primo amore? Che bello. Oh, e dei ragazzi, Fabio? No, hai avuto già tante ragazze? No, no, non hai avuto tante ragazze. Sì, Melissa, pensaci, ok? Vediamo le mani alzate. Chi altro, chi altro? Oh, Marilene, Angelo, bellissimo. Qualcun altro che non vedo? Franco e Franco? Sì, sì, sì, sì, sì. Sara, che dici? Sì, sì, che bello. Quante bellissime coppie abbiamo nella chiesa. Oh, Giovanni e Tina, che bella famiglia. Tina, è bello averti, è bello averti. Tanto bello averti. È bellissimo. Damiano, pure tu in realtà, che Elisa, cioè una è stata, quella ti sei sposata ed è rimasta incinta nel viaggio di nozze, cioè diciamo, quella è stata e basta. Un amore bellissimo. Per quanti conoscono Damiano, quando Damiano si è fidanzato, tutti abbiamo pensato il Signore sta per tornare, cioè è stato così, Dio sta per tornare, perché il vero amore ama per primo. La Bibbia dice questo. Ora non so se chi hai accanto è la persona che hai amato per primo, no, però a prescindere da questo, il vero amore ama per primo. Il vero amore è quello che è per primo sempre. La Bibbia dice questo in Romani 5, lo leggiamo. Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo. Io amo questo verso. Che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. È assurdo. Il vero amore ama per primo. Cioè tu non amavi ancora Dio, non gli avevi ancora dato una motivazione perché Lui ti amasse, anzi, nella motivazione peggiore che tu avevi nei suoi riguardi, che io avevo nei suoi riguardi, e cioè la ribellione totale, il peccato completo, la Bibbia parla di peccatore, come di pieni di peccato, questo è il significato, anzi, depravati e instabili. Mentre eravamo depravati e instabili. Già la persona dice, no, no, non glielo dire. Tu eri un depravato. io ero una depravata, io ero un instabile. Io ho conosciuto Gesù nel pieno della mia depravazione, nel pieno del mio peccato. E sai una cosa? Gesù non si è innamorato di me nel momento in cui io ho accettato Gesù. Gesù non si è innamorato di me quando io ho detto sì Signore, io ti amerò per sempre. Gesù non si è innamorato di me quando ho fatto la preghiera di salvezza. Gesù non si è innamorato di me la prima volta che io sono venuto in chiesa. Gesù non si è innamorato di me la prima volta che io ho letto la Bibbia. Gesù si è innamorato di me nel pieno del mio schifo. Gesù si è innamorato di me da prima che io nascessi. E ha visto tutta la mia depravazione, e ha visto tutto il mio peccato, e ha visto tutta la mia schifezza, eppure è morto per primo. Se c'è un vantaggio che io non posso avere con Dio, che noi non possiamo avere con Dio, è: ma Signore, io ti ho amato prima di te. Chi è che si è innamorati prima? Mamma, papà, chi è che si è dichiarato? Papà, chiaramente, il maschio, giusto, è giusto. Quindi papà, mio padre, si è innamorato prima di mia madre non lo filava proprio, mio padre, però poi si è innamorata di lei, si è innamorata di lui. Ma quando ti innamori per primo, ti piacciono delle cose, mio marito si è innamorato prima di me, vero? Siccome siamo in tema true love, voglio dire questo, ieri ci hanno fatto un'intervista e ci hanno chiesto, Sara e Vito, sappiamo tutte le cose vostre, ma c'è ancora qualche segreto che noi non sappiamo e che ci volete dire? Io ieri ho detto no, però stasera mi sento molto sincera, quindi stasera parlerò un po' di noi. Mio marito si è innamorato per prima di me, per primo di me. Che cosa ha fatto? Immagino, no? Che quando mi vedeva, gli occhi a cuoricino, è vero, io lo vedevo, cioè, no, veramente non avevo capito che si era innamorato di me, pensavo si fosse innamorato di una mia amica, comunque, ok, non ho capito niente, però lui un giorno è andato al cinema con Gianluca e Carli e non mi ha invitato a vedere Il Signore degli Anelli, quando era uscito 27 anni fa, no, 10 anni fa, ok, non siamo così vecchi, e non mi ha invitato e quindi io mi sono offesa. E lui ha detto a Gianluca, Gianluca, mi sono innamorato di una persona. E Gianluca, ma chi è questa persona? Lo scoprirai perché sarà la persona a cui darò un anello. Mio marito è venuto qualche settimana dopo in chiesa, di domenica mattina, e mi ha regalato l'anello del Signore degli Anelli per farsi perdonare. Io lì ho cominciato a capire che i suoi occhi non erano gli occhi di un amico. Perché non è che proprio ad un amico regali un anello così, no, non era un anello di fidanzamento, però era un anello, era una cosa carina. E già lì ho cominciato a capire che lui si era innamorato per primo di me e quindi ha cominciato a guardarmi, ha cominciato a vedere le cose che gli piacevano di me, ha cominciato a innamorarsi di me, d'altronde è impossibile non innamorarsi di me. Quindi lui si è innamorato di me e si è dichiarato. Ma chi ama per primo, chi si innamora per primo, ha più tempo di innamorarsi, vero? Fino a quando poi l'altro non dice, dai, però. Ecco, la stessa cosa è successa con Gesù. Gesù si è innamorato per primo di te. Gesù ti ama per primo. Incredibile. Tu hai semplicemente seguito questo amore, o forse oggi lo devi seguire perché Dio ha pronto per te un amore bellissimo, ma Gesù si è innamorato per primo. Quando? Quando tu eri ancora un depravato. Ancora la Bibbia dice questo, 1 Giovanni 4,19, lo leggiamo sullo schermo. Noi amiamo perché Egli ci ha amati per primo. Tu ami perché Lui ti ha amato per primo. E questi due versi hanno un paio di cose in comune. Uno, il fatto che Gesù ha fatto la prima mossa. Due, il fatto che la prima mossa di Gesù è stata amarci. E l'amore che intende Gesù è la morte. E morire significa, dalla parola specifica, è smettere di essere nella forma in cui sei per cambiare in un'altra forma. Gesù è morto per noi, per darci una nuova forma in Lui. È come il seme, come dice la parola, il seme che non muore non porta frutto. Gesù è dovuto morire per portare questo frutto di amore che siamo noi. Questo è un po' questa scenografia per me. Questo amore è la priorità. Questo punto è l'amore primo. È Lui che ci ha amato, diciamolo insieme, per... È Lui che ci ha amato per primo. L'amore vero ama per primo. E noi non possiamo far altro che seguirlo. E quindi qui c'è Vito, c'è Sara, c'è Noemi, c'è il pastore, c'è mamma, c'è papà, e questi siamo noi. E a me piace pensare questo, perché noi semplicemente siamo delle derivazioni del suo amore, ma è lui la priorità, è lui il primo amore. E questi fili devono continuare, perché in realtà non possono fermarsi in questa chiesa, perché ci sono ancora tante persone a cui questo amore deve arrivare. E quello è il vero amore. E chi andrà? Andremo noi per primi ai nostri amici? Andremo noi per primi alla nostra famiglia a dire questo è l'amore, vieni perché Gesù ti ha amato per primo. Per primo, prima di tutti e prima di tutto. Questi due versi hanno in comune il verbo amore. E l'amore che si intende qui è l'amore agape, che significa amore... Noi sappiamo che l'amore agape è quello delle... Mangioni e Beoni, ok? I ciccivizzi si chiamano a Modugno, ma non posso più parlare in dialetto perché ora andiamo su YouTube, poi ci vedono tutte le parti del mondo, poi non si può tradurre niente, quindi non potrò più parlare in dialetto dal palco, ma potrò solo dire parole in italiano. Agapao significa io amo, io spero il meglio per, io prendo piacere nell'amare qualcuno, io appartengo a qualcuno, io condivido con qualcuno, io amo perché. Io ho una ragione per amare. Tutto questo amore è tu. Gesù ti ha amato per primo. Ti piace? Ti piace o no? Quando ti dico la parola per primo, molto probabilmente due pensieri proprio saltano nella tua testa. Uno, fare le cose per primi è da secchioni. È vero? Quando vai a scuola e rispondi per primo, sei un... Oppure un lecchino, si dice così, no? Non ti sfottano in classe perché sei un lecchino, no? Perché ti vuoi farti vedere, perché ti vuoi mettere in mostra, perché ti vuoi guadagnare la fiducia di qualcun altro. Nella nostra cultura essere per primi non ha una buona connotazione, anzi, noi siamo dell'idea che gli ultimi sono i primi, è vero? Quindi tu arrivi e l'ultimo che deve dare una mano... Sei tu, perché tanto ci sono gli altri che fanno i primi prima di te. E l'ultimo che deve amare sei tu, perché tanto aspetti che gli altri facciano i passi. L'ultimo che deve andare a dare un incoraggiamento, come il pastore ci ha detto, sei tu, perché tanto stanno quelli... No, come ha detto il pastore, ci sono i migliori che vanno sempre, sono loro quelli che si muovono sempre, non fa niente se io rimango seduto. No, perché noi viviamo in una cultura in cui essere primi, andare, scappare, fare la prima mossa, non è tanto, è un po' da sfigati, è vero, è un po' da... che proprio Gesù è andato per primo, Gesù è andato per primo. E sai che c'è? Quando vai per primo c'è una grossa dose di rischio. Quando vai per primo c'è una dose che ti dà l'adrenalina, che dici vado o non vado? Cioè, vado o... Cioè, se io vado a dire a Noemi... Ti voglio bene, noi mi si girerà dall'altra parte forse. Quindi è meglio che non ci vado. Se io vado a dare una parola di incoraggiamento, forse la persona non mi risponderà, quindi è meglio che non vado. Invece no, andare per primi ha quella dose di bellezza, ha quella dose di rischio, ha quella dose di impegno che è lo stesso che Gesù ha avuto per noi. Ti piace o no? E abbiamo paura dell'andare per primi. Abbiamo bisogno che gli altri facciano prima una mossa verso noi e poi noi forse la facciamo. Andare per primi è rischiare, andare per primi è prendere una responsabilità e un impegno diverso. Per tornare a me e mio marito mi ha mandato una mail per dichiararsi. Prima si usavano i foglietti, poi i messaggi, ora è l'epoca delle mail. Mio marito mi ha mandato una lunga email per dichiararsi e la fine della mail era più o meno così. Posso dirlo tanto. Fa niente. Era più o meno così. Il Signore mi ha detto che tu sarai mia moglie. Proprio convinto. Fa una piega. Se tu non vuoi, io getterò la chiave del mio cuore. È vero, ho imparato a memoria. Getterò la chiave del mio cuore e non avrò nessuno nella mia vita. Incredibile. Ha fatto una mossa rischiosa, rischiando tutta la faccia. Sapete che risposta gli ho dato? Voglio stare da sola. Le ho risposto così. Ciao Vito, grazie mille, ma io sono innamorata di Gesù e basta. Non voglio avere nessuno nella mia vita. Quanto ha rischiato mio marito? Ha rischiato un sacco, però mi ha dato un esempio. Vi racconto un'altra storia simpatica. È successo che poi io ho voluto spiegargli questa mail, perché non volevo stare con qualcuno, perché avevo paura di stare... E sono andata a parlargli. Siamo andati a Castel del Monte, ha trovato una bellissima location, proprio da matrimonio. Lui ha detto, andiamo a fare una passeggiata a Castel del Monte, romantica. E lì mi sono totalmente innamorata di lui. Perché lui è venuto da me dicendo, tu sei mia moglie. Non voglio provare a stare insieme, tu sei mia moglie, punto. E così ho detto, ma sai, Io sono single da tanto tempo, ho fatto, passato un tempo di solitudine, sono una scapola contesa in chiesa, tra l'altro, e voglio anche spendere la mia vita per il Signore. Non lo so se voglio stare con qualcuno, se voglio sposarmi, voglio stare con mamma e papà. Cioè, bugia, non volevo stare con mio papà, ma papà mi ha cacciato a 18 anni. Quindi, e però mi sono innamorata di lui. E quindi abbiamo fatto un patto e abbiamo detto, ok, questi sono i passi che dobbiamo fare. Cominciamo a pregare e cominciamo a dirlo alle persone che per noi sono persone affidabili, che chiedano per noi delle parole di conferma se siamo fatti l'uno per l'altro. Così lui mi ha accompagnato a casa. Abbiamo trovato un posto vicino a casa dei miei genitori, abbiamo trovato un posto di fronte ad una Madonna, non so perché, era lì un posto privato, siamo stati lì. E abbiamo detto, ok, preghiamo. Abbiamo pregato. Sai, tu sul tuo sedile, lui sul suo sedile, così imbarazzatissimi, così, Signore, ti prego, sei lui mio marito, per piacere, dillo a qualcuno, Signore, ti prego, conferma questa donna che è mia moglie, io lo so già, così. Amen. Sull'amen, mio marito ha voluto censire questa preghiera partendo di colpo con un bacio. Fatto proprio così, proprio di colpo. Io ho fatto così, no! Perché non sei ancora mio marito, non lo so se ti posso dare un bacio, perché non so se sei mio marito o no. È diventato un momento nostro, intimo, che ormai non è più intimo, però. Lui ha rischiato per primo, ha rischiato di darmi un bacio, di prendere un due di picche, come è successo. Ma è bello andare per primi, è bello essere i primi. E sai, oggi non voglio parlarti del mio fidanzamento, perché non serve molto, ma oggi voglio dirti che cosa significa essere i primi nelle relazioni, non nella relazione matrimoniale e basta, ma nelle relazioni di amicizia, nelle relazioni di lavoro, nelle relazioni familiari, nelle relazioni di fidanzamento, di matrimonio. Il principio è essere i primi. Come facciamo ad essere i primi nelle nostre relazioni? Prima di tutto c'è un principio che secondo me, che tu sia figlio, o genitore, o fidanzato, o moglie, o amico, o che sei un collega, c'è un principio che sistema le relazioni. Uno, l'onorarsi. Quanto è incredibile il principio dell'onorarsi. La Bibbia dice, quanto all'amore fraterno siate pieni di affetto gli uno per gli altri, quanto all'onore fate a gara nel rendervelo reciprocamente. Bellissimo. Cioè, rivestitevi dell'amore e quanto all'onore fate a gara. Questo vuol dire che, Noemi, grazie. No, ma grazie a te. No, Noemi, ma grazie a te. No, ma grazie a te. No, questo è fare a gara. Questo è fare a gara. L'onorare è stimare, è dare valore, è aiutare, è benedire, è lasciare il tuo posto, quello che pensi che ti spetti, a qualcun altro, è prendere quella benedizione che sai che è tua e che te la tieni stretta e dire tieni perché ti voglio onorare, voglio darti un posto di stima, di fiducia, di amore che io avrei avuto per me, ma lo voglio lasciare a te. Quando prima, non so se ora ancora i ragazzi hanno questa abitudine, ma i miei genitori mi hanno insegnato, quando sei sull'autobus, in qualsiasi posto sei, c'è una persona più anziana di te, devi alzarti e lasciare il tuo posto, giusto? C'è chi lo fa ancora, bellissimo. Se c'è una persona davanti a te, quando entri in una porta o dietro di te, allora aspetti, tieni la porta aperta e fai entrare, perché onorare gli altri è onorare una persona più anziana di te ed è lasciare il tuo posto e far entrare al posto tuo. Questo è l'onorare. Nella nostra famiglia c'è un principio. La nostra famiglia è basata su Dio e sul caffè. Se finisce il caffè a casa nostra, io e mio marito rischiamo il divorzio, ma sul caffè si basa tutta la nostra relazione. E la nostra gara è questa. La mattina noi facciamo quasi sempre, allora, la mattina comincia con mio marito che porta il caffè, bellissimo, a letto. Amore, grazie. Cioè ci sono i giorni in cui lui si vuole stare un po' di più a letto e quindi parte la mano. Poi parte il piede, poi il principio cardine è togli la coperta, se gli togli la coperta lui si alza per forza e poi lì comincia, amore vai tu, no, no, dai, dai, vai tu, no, dai, vai tu, dai, dai, vai tu. Allora succede questo, che giornalmente mio marito, la regola, a casa nostra è che la mattina comincia con il suo caffè, però a me piace fare una cosa, quando ha un lavoro particolare, quando deve predicare, quando ha una giornata di tensione. Io mi sveglio prima di lui e io gli porto il caffè, perché lo voglio onorare sin dalla mattina. Questo è un principio molto importante, onorare è dare qualcosa a, è fare qualcosa per, è dire qualcosa a qualcuno che lo faccia sentire stimato e amato, come tu vorresti che facciano con te. Ti piace? E noi pensiamo che questa sia una predica da sentire e basta, ma questo è un messaggio da vivere subito. Quindi vogliamo alzarci in piedi e in piena preghiera, in uno spirito di preghiera, vogliamo scegliere una persona, chiedi allo Spirito Santo, una persona che vuoi onorare stasera, da cui andrai ora e gli darai un abbraccio, gli darai un bacio, maschi con i maschi, femmine con le femmine, solo se siete marito e moglie va bene, gli dirai qualcosa, gli farai un regalo, lo benedirai in qualche maniera, scegli una persona. Questo è un momento molto importante, forse questa persona ha bisogno di quell'amore, forse questa persona ha bisogno di sentirsi collocato in una posizione in cui tu devi collocarlo. Preghiamo. Signore, grazie perché tu ci insegni l'onore, perché tu hai detto chi tra voi vuole essere il primo servi il più piccolo, e noi vogliamo servire questa famiglia in questo momento, vogliamo servire la tua sposa, vogliamo servire perché sappiamo che questo ti onora e perché questo ci plasma dal tuo amore, con il tuo amore che hai dato per primo. Amen. Vai da una persona, onoralo come pensi gli faccia bene. Pronti? Via! Amen. Dio ha amato per primi, il vero amore ama per primo. Ci piace questo? Possiamo tornare al nostro posto? Posso vedere le mani di chi si è sentito onorato in questo momento? È imbarazzato anche. Posso vedere le mani di quelli che veramente avevano bisogno di essere onorati come siete stati onorati oggi? Che bello. Il vero amore ama per primo. Sei andato per primo? È stato facile? È stato bello? E allora l'amore vero non è facile, però è bello, sempre. Secondo prigioniero, quanta difficoltà abbiamo a tornare a posto, perché ci piace onorarci tanto, tanto. Il secondo principio dell'amare per primi, oltre all'onorare, è la generosità. Io amo questo principio, lo sto imparando, lo voglio imparare di più, ho bisogno di capirlo meglio, ho bisogno di andare dentro questo, perché per me è importante capire che nella misura in cui Gesù si è dato, e cioè Gesù ha dato per primo tutto, io voglio impararlo. La generosità mi sta insegnando a non vedere le mie cose belle che devono rimanere mie. Allora sto facendo una lista nella mia testa, sempre. Cerco di pensare, qual è la cosa a cui tengo di più? Allora dalla. Io sto facendo così, da novembre, dicembre, che abbiamo fatto tutto il mese della generosità. Quello che mi è rimasto è, che cosa per te è veramente importante? Dalla. Una cosa a cui io tengo moltissimo sono le collane. Giudicatemi male, non lo so, però io amo le collane, proprio ho una collezione di collane, ce ne ho circa 255 più o meno, ce ne ho di tutti i tipi, questa è la mia ultima, l'ho comprata da Melissa, da lì, compratela anche voi, bellissime. Io ho difficoltà, cioè se qualcuno mi dice ma che bella collana hai, beh sicuramente il mio primo pensiero non è la vuoi. Il mio primo pensiero è grazie, questa l'ho comprata da Melissa, true love, bellissimo, c'è una collana che ho, che è vintage, vedete quando ne parlo proprio c'è una passione, è una collana vintage degli anni 70, l'ho comprata in un negozietto a Seattle, ti ricordi, vi siamo andati in questo negozietto vintage, tutto, a me piacciono le cose vintage, il pastore lo sa, sono una fan del pastore, perché lui è vintage pure, quindi sono una fan del pastore vintage, e quindi ho comprato questa collana. È bellissima, quando me la vedete in chiesa tutti quanti mi dite che è bella. Sapete quante volte ho pensato di darla a qualcun altro? Nessuna. Ma non ci penso proprio. Si è rotta e l'ho dovuta riaggiustare perché no! E quindi, e sto pensando, quella mi piace proprio. E ora sto cercando di pensare, a chi posso regalarla? A chi posso darla? A chi posso benedire con questo? Lo so, è una cavolata, non è una cosa... Però per me è importante. Quali cose importanti hai? La tua casa? Invita qualcuno a casa tua a cenare. È importante la tua camera da letto? Invita gli ospiti a dormire a casa tua. È importante la tua macchina? Prestala a qualcuno. Sono importanti i tuoi vestiti? Dagli a qualcun altro. Sono importanti le tue borse? Regalale a qualcun altro. Sono importanti i tuoi soldi, donali. Perché siamo generosi, perché vogliamo essere generosi. L'esempio della nostra famiglia è questo. Siamo stati in America 2 anni fa e io impazzisco per il caffè, l'ho già detto, no? C'è una catena di caffè che si chiama Starbucks e io amo Starbucks, proprio mi piace il frappuccino coffee, no? Quello con la crema e il gelato, chi è stato all'estero lo sa. E ho scoperto questo, che Starbucks ti dà una carta. Io so che le donne, come me, siete malate per le carte fedeltà. Io ce le ho tutte. Ce le ho per i trucchi, ce le ho per l'Ocean, ce le ho per... Mario, fai una carta fedeltà. Dove sta Mario? Per la salumeria, non so, papà. Fate, perché è bellissimo, non ti danno mai niente. Però è bello che tu vai e sai che ti chiamano con un nome. Allora sono andata a Starbucks e ho scoperto che c'è la Gold Card. Una carta dorata. Bellissima. E cosa succede con questa carta dorata? Che quando tu vai, loro ti riconoscono. Se ne compri una sfacciata cifra di caffè, loro te ne regalano uno. al tuo compleanno ti fanno un regalo, ti mandano una mail, ti regalano le stelline e poi spendi un sacco di soldi e basta praticamente. Però avevo scoperto che per avere la gold card io dovevo collezionare 30 stelline. E 30 stelline erano 30 caffè comprati o qualsiasi cosa comprata lì. Io vi dico che andavo ogni giorno per avere la gold card. Una volta che l'ho ricevuta, in realtà poi me l'hanno inviata qui, ma ero possessore al femminile? Possessore? Quando una volta che quella gold card era mia, mi dava un diritto. Alla 30ª stellina io avevo un caffè gratis. E allora il giorno prima ero tutta emozionata, ma domani vado a prendermi l'ultimo caffè e dopodomani avrò il mio caffè gratis. Quindi il giorno dopo sono andata di corsa a Starbucks, cioè erano, non so, tipo 8 chilometri, 7 chilometri dal monte, sono andata correndo, proprio, vi dico, che poi dovevo anche salire, ma ero felice. Sono andata a comprarmi il mio frappuccino coffee, ho pensato dentro di me, è l'ultimo che pago, domani l'avrò gratis. Così sono andata il giorno dopo, ero felicissima. Cioè io sono entrata proprio spalancando la porta, mi sentivo una star, yeah, oggi ho la mia gold card e tu devi darmi il mio caffè gratis. Così sono arrivata lì, ho ordinato il caffè più grande che esisteva, il 20, no? E poi ho preso la panna e poi ho preso tutte le cose che si potevano mettere e ho detto, quanto costa? E la cassiera mi fa, nothing, niente, perché lei ha la gold card. Yeah, yeah, yeah. Io composta, sì, non sapevo, ma veramente. Però la cosa che voglio raccontarvi è che non ho comprato il mio caffè preferito, ma ho comprato il caffè preferito di Vito. E quindi ho preso la macchina, sono arrivata a casa e gli ho dato il suo caffè preferito. E lui mi ha detto, hai avuto la stella gratis, sì, e cosa ti sei presa? Questo. Ma è per me? Sì. Perché è il meglio? Perché è il meglio? Ma che pregio c'è a dare un caffè secondo? È bello dare la cosa, la prima cosa. Ora, questa è una cosa rispetto a miliardi di cose che mio marito fa per me, dandomi il meglio. Però è una cosa ed è il meglio. Gesù ha dato il meglio. Gesù ha donato se stesso, si è donato, ha dato tutto per noi. Questo è vero amore. Ti piace? Ti piace o no? Tu sai che sarà pratica questo punto, vero? Quello non ci piace. No, ci piace perché noi siamo una chiesa generosa. Io ti voglio chiedere in questo momento la stessa cosa che è successa prima, di chiedere allo Spirito Santo di ispirarti con qualcosa che hai in questo momento addosso. Un fazzoletto, un rossetto, la Bibbia, dell'acqua, una caramella, una chewing gum, dei soldi, tutto quello che vuoi, una collana, no, Signore? Chi viene da me avrà una collana, ok? Però pensa ad una cosa che puoi regalare in questo momento ad una persona. Donne, aprite le vostre borse, le borse di Mary Poppins, e prendi una cosa che puoi regalare. Uomini, mettete le mani nelle vostre, non so, i giacconi hanno gli uomini, e pensa ad una cosa che puoi regalare, che ha un significato però, che è bella, e va benissimo una caramella, va benissimo una chewing gum, va benissimo un fazzoletto di carta, ma vai in questo momento a regalare. Vogliamo alzarci in piedi? Vedo che c'è movimento. C'è movimento. La penna. Chi ha la penna della chiesa del pastore la può regalare in questo momento. Preghiamo. Preghiamo, ok? Vogliamo alzarci in piedi e pregare. Perché non è una cosa banale. Sai, forse stai per fare un regalo che benedirà molto la persona che hai, da cui andrai. Vogliamo pregare, sì? Alziamoci in piedi e preghiamo. Chiesa, preghiamo. Chiesa, papà, preghiamo. Signore Gesù, grazie perché tu hai donato tutto per noi e ti chiediamo di plasmarci proprio con la tua idea della generosità, perché questo sistema le nostre relazioni. Signore, io ti voglio chiedere che in questo momento relazioni possano essere aggiustate con la nostra generosità. Forse ci sono conflitti in mezzo a noi, forse ci sono cose che non abbiamo, che sono rotte da tanti anni. Io ti prego in questo momento di darci quella sapienza e quella guida perché tutto possa essere sistemato. Nel tuo nome Gesù. Amen. Amen. Possiamo andare. Amen. Chi è stato benedetto dal ricevere qualcosa? Amen. Io appena ho dato, ho ricevuto. Proprio appena ho fatto il mio regalo, so che mi state guardando la collana, ma l'ho promessa già a qualcuno, ok? Appena ho dato, in quel momento ho ricevuto. Perché la Bibbia proprio dice questo, date e vi sarà dato. Una misura scossa, pigiata e traboccante vi sarà versata in seno. Che bello! Quando dai, dai, quello che ne ricevi è una profonda benedizione, perché Dio ti dà sempre. Vogliamo accomodarci di nuovo? C'è tutta una categoria di persone che si sta ancora parlando, dando, bellissimo, bellissimo. Vogliamo vivere l'ultimo punto e poi ho finito. Amare per primi è onorarsi, è onorare, amare per primi è donarsi, donare, essere generosi. Ci siete, Chiesa? Possiamo continuare dopo questo, eh? Possiamo continuare comunque a darci, a dare, a benedire, ad andare. L'ultimo punto, amare per primi è perdonare. Perdonare. Ti piace? Non è vero. Non è vero che ti piace, perché è brutto, perché perdonare, se ci fosse il tasto non mi piace, lo cliccheremmo tutti, è vero? Non ci piace perdonare, perché è pesante, perché è fastidioso, perché devi andare per primo, perché ti devi umiliare, perché devi chiedere perdono, perché è brutto perdonare. Noi abbiamo il principio del caffè nella nostra famiglia e abbiamo il caffè per quando litighiamo, perché io e mio marito siamo una coppia stupenda, non litighiamo mai. Litighiamo, perché ci amiamo e quindi litighiamo. E noi abbiamo il principio del caffè riparatore. Cioè, che vuol dire? Quindi noi abbiamo il caffè della mattina, poi abbiamo gli altri caffè, poi abbiamo il caffè riparatore. Il caffè riparatore è il caffè secondo cui, se abbiamo litigato, il primo che fa il caffè e lo porta all'altro è il primo che ha intenzione di chiedere scusa. Ok? Allora succede più o meno così, che in genere io ho ragione quando litighiamo. Non è vero. In genere facciamo a gara. Ed è successo un'ultima volta così, che abbiamo litigato e io mi stavo per alzare dal divano e per andare da mio marito. In quel momento ho sentito la porta del soggiorno aprirsi e lui venire da me. E ho detto, no, stavo venendo io, ti chiedo scusa io, che scusami, che schifo che sono, perdono. L'ultima volta è successo così. Non succede sempre così, altre volte succede che tipo io vado da lui col caffè e lui fa... Voglio così, che mio marito quando è arrabbiato stringe gli occhi con... Non lo senti cosa dice, grazie a Dio, però... E io so che in quel momento devo lasciare il caffè sul tavolo e andarmene, ok? E tu te ne vai e poi quando è il momento, allora torniamo. E quando è il momento io o riprovo o lui viene da me e ci chiediamo perdono. Non è vero che ho sempre io ragione, cioè penso di avere io ragione, ma quella è la mia condizione. Non vale. Stavo per dire una cosa bella, non la dirò, ok? Non lo dirò perché mio marito si è attirato la folla proprio. Non va bene, allora penso di avere ragione perché... Perché è la mia condizione di egoismo e di orgoglio che mi dice ma non può avere ragione tuo marito. Sapete qual è il principio che genera questo? Il principio dei 10.000 talenti e dei 100 denari. C'era un uomo, Pietro un giorno ha chiesto a Gesù, Gesù ma se mio fratello sbaglia nei miei confronti quante volte dovrò perdonare? Gesù gli dice, Pietro gli chiede 7 volte? 70 volte 7. E poi gli ha cominciato a raccontare una storia, c'era un tipo che aveva un debito, aveva 10.000 talenti di debito. E allora il suo padrone l'ha visto e mosso a compassione ha detto non preoccuparti, il tuo debito è pagato. Quello stesso debitore, uscito dalla casa del suo signore, esce e trova il suo debitore, una persona che con lui aveva un debito di 100 denari. E lo prende dalla gola e gli dice mi devi dare i miei 100 denari che mi spettano. Così i servi lo vedono e lo vanno a dire al suo padrone. Il suo padrone dice, lo manda a chiamare e dice, perché? Servo ingiusto. Qual è il principio che non ci muove nel perdono? Che pensi sempre che quello che gli altri ti hanno fatto sia molto più grande di quello che tu hai fatto. Il tuo dolore è più grande rispetto a quello della persona che hai offeso, che ti sta offendendo. I tuoi 100 denari sono sempre più grandi dei 10.000 talenti. Ma è questa proporzione che è assurda, perché 10.000 talenti sono milioni di euro. 100 denari sono 3 mesi di lavoro. La proporzione è assurda, eppure nel nostro egoismo ci dimentichiamo di essere stati perdonati da chi ci ha condonato un debito di 10.000 talenti. Io e tu eravamo, come la Bibbia dice, peccatori, depravati, instabili, peccatori. Eppure molto spesso siamo più bravi a vedere i peccati che gli altri fanno nei nostri riguardi. Chiesa è insita nell'essenza del cristiano il perdono, perché tu sei cristiano, perché accetti Cristo. Accettare Cristo significa che Cristo Gesù ha perdonato il tuo debito è il mio debito. Noi siamo partoriti nel perdono. Questo non vuol dire che si deve fermare lì, ma il perdono è qualcosa che deve entrare nelle nostre relazioni sempre. Nelle nostre relazioni sempre. Il perdono è veramente brutto, ma quando cominci a perdonare, allora cominci a liberare questa catena di peccato, cominci a rompere questa catena di debito, cominci a spezzare queste relazioni che si sono rotte per cause brutte. E io sentivo proprio mentre pregavo per questo messaggio che ci sono tante relazioni importanti, sacre, che Dio ci ha dato di amicizia, di fratellanza, di comunione, che sono state rotte per una mancanza di perdono. Ci sono tanti matrimoni in mezzo a noi che sono spenti per la mancanza di perdono. E tu pensi che dovrai perdonare quando l'altra persona sarà cambiata? Ma questo non è perdono. Perché che senso ha perdonare qualcuno che cambia? Si perdona qualcuno che è ancora in debito, non che ha saldato quel debito. Molti di noi sono dell'idea, ma se lo perdono poi tornerà a fare le stesse cose. Vuoi una notizia stasera? Dio ci ha perdonati, eppure noi continuiamo a fare gli stessi errori ancora. E indovina un po', Lui continua a perdonarci. Per primo Lui ci ha perdonato, per primo Lui ci ha amato, per primo Lui ci ha onorato, per primo Lui si è dato. Questo è il vero amore. Il vero amore è l'amore che perdona per primo. Quindi lo so che forse è troppo dirti vai da qualcuno e chiedigli perdono. Non lo farò, perché non voglio forzare questo. Però credimi, ho pregato che finisca questo messaggio e tu vada da qualcuno a chiedere perdono, io vada da qualcuno a chiedere perdono. Però forse ora vogliamo fare un impegno, vogliamo prendere un impegno insieme, che è quello di prendere il tuo cellulare o il tuo block notice o dove stai scrivendo. E io ti chiedo di pensare ad almeno una persona che devi perdonare e a prendere l'impegno di perdonarla stasera. Almeno una persona che vedi che nella relazione con lui, con lei, non va. C'è qualcosa che... Oggi devi perdonare per primo. Forse dovrai andare a chiedere scusa per primo. E forse dovrai dire, senti, mi dispiace, ho bisogno di recuperare la mia relazione con te. Prendiamo un attimo di tempo per scrivere quel nome, per ricordarci di prendere un appuntamento con quella persona, per pregare perché quel perdono possa essere rilasciato sulla nostra vita. Forse sarà tuo marito, tua moglie, forse sarà tuo fratello, tua sorella, forse appena uscirai da questa chiesa avrai quella persona già davanti. Prendi un impegno di perdono, perché il vero amore perdona per primo. Non aspettare che sia l'altra persona a venire da te, non ne avresti nessun merito. Non ne avresti nessun merito. Non correresti nessun rischio. Non avresti nessun guadagno. Non avresti nessun vero amore che stai vivendo, perché stai vivendo una buona relazione, ma il vero amore rischia perché va per primo. Amen. Prendiamo un minuto ancora per pregare, perché ognuno di noi possa scrivere quel nome sul proprio telefono per segnarcelo, perché possa prendere un impegno stasera. Vogliamo alzarci in piedi, continuare ad adorare Dio nel suo vero amore, che ci dà la forza di perdonare. Quando parliamo del perdono ci intristiamo subito, perché è pesante il carico che ne portiamo, ma quei talenti, quel debito deve essere tolto, deve essere tolto. Quanti di noi hanno fiducia che se questa settimana faranno un passo di perdono, la settimana prossima verranno in chiesa più leggeri? Posso vedere la mano? Io non voglio venire domenica prossima nella stessa maniera. Io voglio venire più leggera, perché voglio perdonare, perché ho bisogno di essere perdonata e ho bisogno di chiedere scusa. Ho bisogno che quando guardo alle mie relazioni non guardo ad un album di morti, ma guardo ad un album di cose belle, di cose vive. Quando guardo alle mie relazioni con i miei genitori devo gioire. Ho bisogno di gioire. Se non stai gioendo per le relazioni che hai con tuo padre e con tua madre, perdona, perdona, chiedi perdono, benedicilo, benedicila. Se quando guardi al tuo matrimonio non lo vedi un matrimonio che fiorisce, allora sai una cosa, chiedi perdono per primo. Non sai in cosa è sbagliato, chiedi perdono comunque, chiedi perdono. Forse sei un amico e hai perso tanti amici, perché? Perché non hai perdonato e perché non ti sei fatto perdonare. Oggi prendi un impegno, i tuoi amici ti danno valore, abbiamo bisogno di un gruppo di persone intorno a noi che ci faccia sentire amato, a cui dare, che possiamo benedire. Vai, riprendi quelle relazioni che sono morte, riprendi quelle relazioni che sono state stracciate e demolite dalla mancanza di perdono. Riprendi le tue relazioni con le tue autorità, forse con i tuoi leader, forse nel tuo gruppo, forse in questa chiesa. Perché? Semplicemente perché non hai perdonato. Riprendi il tuo posto, riprendi il tuo posto, chiedi perdono, perdona, ma continua nelle relazioni, perché Dio per primo ha fatto una scelta di entrare nella relazione con noi, di dare tutto per la relazione con noi. Questo è quello che noi possiamo fare, pieni di questo amore. Amen. Grazie Signore Gesù, perché Tu ci hai amati per primo. E Padre, noi vogliamo chiudere questa conferenza sul vero amore, ringraziandoti e adorandoti, perché Signore, io ti ringrazio personalmente, perché ho capito di più quanto mi ami, perché ho capito di più come amare mio marito, come farmi amare da mio marito, perché ho capito di più come amare i miei amici, come farmi amare dai miei amici, dalle mie autorità. Signore, grazie perché mi hai dato le relazioni, perché mi hai creata sociale, perché Signore non mi hai lasciata sola. Grazie perché hai provveduto e provvedi a delle buone relazioni intorno a me. Signore, io voglio pregare questo per ognuno di noi, che la purezza del cuore non possa essere semplicemente qualcosa di legato alla sessualità, ma che possa essere legato alla stima, all'onorare gli altri, al benedirli, ad essere generosi, al perdonare gli altri. Signore, io prego per quanti di noi si sentono giusti alla tua presenza, si sentono che non devono fare niente delle cose che ho detto. Io ti prego, Signore, di rompere l'orgoglio, di rompere l'egoismo, di rompere l'egocentrismo stasera, perché possiamo comprendere quale vero amore Tu ci hai dato e con quale vero amore Tu vuoi benedirci e ci vuoi usare per benedire gli altri. Nel Tuo nome, Gesù, nel Tuo nome, Gesù, vogliamo glorificare il Tuo potente nome, la Tua santità, il Tuo amore, la Tua grazia, la Tua gloria. Vogliamo, Signore, essere una Chiesa che ama davvero, che ama per prima, che non fa le cose solamente per inerzia o dopo che qualcun altro le ha fatte. Signore, vogliamo fare le cose per primi, spinti dalla Tua passione, dal Tuo amore. Questo sei Tu, Signore, vogliamo fare questo nel Tuo nome, Gesù. Chiama questo corpo, chiama questa Chiesa ad essere una Chiesa che ama per prima. Chiama per prima i perduti, chiama per prima gli extracomunitari, chiama per prima gli omosessuali, chiama per primi i malati psichiatrici, chiama per prima, Signore, chi è totalmente legato al mondo dell'occulto. Chiama questa Chiesa ad amare per primi ogni persona che ancora non ti conosce. Signore, io prego profeticamente su questa scenografia che questo amore possa arrivare dove non è arrivato ancora, possa arrivare ai nostri vicini di casa, alle nostre famiglie, ai nostri amici, ai nostri colleghi di lavoro, ai nostri compagni di scuola, nel Tuo nome.